Come annunciato, andiamo a presentare questo libro di Silvia Calamati, uscito qualche mese fa, Le compagne di Bobby Sands, Le donne e la guerra in Irlanda del Nord. Intanto, buongiorno Silvia, grazie per la tua presenza. Salve a tutti, ciao. Allora, non c'è davvero granché bisogno di presentarti. Silvia Calamati è una giornalista, scrittrice, nota ai più per aver curato il diario di Bobby Sands, ma insomma ci sono anche tante altre cose che hai fatto e che hai scritto. Noi oggi andiamo a presentare questa tua ultima fatica, che in realtà è una fatica decennale, visto che il libro che è uscito da poco prende le mosse da un altro libro che è stato pubblicato 10 anni fa, in qualche modo integra quel lavoro. Ci puoi raccontare un pochino brevemente intanto la genesi di quest'opera, che lo ricordiamo è una sorta di raccolta di storie di donne dell'Irlanda del Nord negli ultimi 40 anni ormai. Sì, anche un po', diciamo, la storia del mio rapporto con l'Irlanda del Nord degli ultimi 30 anni. 30 anni. È veramente una sorta di libro che mette insieme voci di donne, anche la mia voce, tutte insieme nel raccontare appunto il conflitto dell'Irlanda del Nord. Il libro ha una genesi, come dicevi tu, molto, molto lunga. E nel 2001 è uscita l'edizione in italiano e la genesi è una serie di cassette di interviste che io avevo raccolto quando a metà, fin dalla fine degli anni 80, io mi recavo in Irlanda del Nord. C'era ancora, diciamo, la guerra, nel senso di prima dell'accordo di pace del Venerdì Santo. Io ero studentessa, stavo finendo l'università e mi sono trovata in Irlanda del Nord, portata dalla vicenda di Bobby Sands, perché non riuscivo a capire come un ragazzo così giovane, di 4 anni più vecchio di me, si fosse lasciato morire di fame in condizioni così terribili in un carcere dell'Irlanda del Nord. E così, con zaino a sacco pelo, ai primi anni 80, nell'82, avevo deciso di andare a vedere che cosa era successo a questo ragazzo. E andando in Irlanda del Nord in quegli anni, non sapevo che mi sarei trovato appunto in una situazione di guerra. Io conoscevo la guerra semplicemente per quello che avevo chiaramente studiato a scuola, per le voci di chi aveva fatto la guerra. Mio nonno ha fatto la prima guerra mondiale, poi della seconda guerra mondiale, chiaramente partigiani, poi anche i miei genitori, insomma. Avevo un'idea della guerra, perciò per interposta persona. Arrivata in Irlanda del Nord, e la guerra mi è apparsa sotto gli occhi, e in quella che è diciamo, l'aspetto più terribile, cioè le conseguenze che un conflitto ha sulla gente comune, sulla gente tutti i giorni. Perché quando la si studia a scuola, quando si pensa alla guerra, si pensa sempre a una forza armata, si pensa a militari, ma si fa fatica a capire come questa realtà poi venga vissuta nelle case della gente. E chiaramente questa esperienza è stata per me assolutamente devastante, nel senso che io mi sento comunque una traumatizzata dalla guerra in Irlanda del Nord, proprio perché arrivando in una realtà in cui la sofferenza era così diffusa, così generalizzata, e ne sono stata segnata e per sempre, non si può dimenticare, non si può ritornare a fare la propria vita di tutti i giorni quando si assiste alla sofferenza altrui, che è così radicata, così profonda, e soprattutto a una sofferenza ingiusta, perché quando a pagare sono donne, bambini, persone indifese, si fa fatica, nonostante tutte le possibili spiegazioni razionali del perché di una guerra, a capire perché siano loro che devono pagare un prezzo così alto. E a quel tempo, perciò, giravo per le strade dell'Irlanda del Nord raccogliendo voci attraverso un registratore che mi portavo dietro. Alcune di queste storie le avevo pubblicate su Avvenimenti, altre rimanevano in cassetta e non riuscivo a trascriverle perché erano troppo dolorose. Per me era veramente difficile e doloroso ascoltare voci di persone che mi raccontavano che cosa era successo a loro. la repressione, la violenza, le perquisizioni, l'uccisione del marito, di un fratello, gli anni di carcere cui era stato condannato un figlio ingiustamente, e niente, per cui queste cassette si accumulavano una sopra l'altra, senza che io facessi niente. Poi è successo un evento nel marzo del 1999, Rosemary Nelson, che era un'avvocata per i diritti umani, la prima ad aprire un ufficio legale in Irlanda del Nord per conto suo, salta in aria dopo che una bomba viene piazzata sotto la sua auto. Rosemary Nelson era andata pochi mesi prima al Congresso degli Stati Uniti d'America per denunciare il fatto che persone come lei, avvocati dell'Irlanda del Nord, non potevano esercitare liberamente il proprio lavoro perché erano sottoposte a minacce di morte, a pressioni psicologiche anche da parte della polizia, e perciò era molto difficile continuare il lavoro preziosissimo che stavano facendo di denuncia delle violazioni dei diritti umani. Quando sono venuta a sapere che Rosemary Nelson era morta, era una donna a cui era stata negata la scorta, per cui proprio una morte annunciata che faceva eco a quello di un altro avvocato per i diritti umani, Pat Finucane, ucciso 10 anni prima di lei davanti alla moglie e ai figli nell'89 nella sua casa di Belfast, a quel punto qualcosa è scattato dentro di me e mi sono detta: se in Irlanda del Nord cominciano a sparire le persone che hanno anche gli strumenti legali, hanno la voce per raccontare quello che io ho visto e che la gente non ha la forza di raccontare perché l'unico strumento appunto è lo strumento legale, e la situazione è veramente brutta, per cui mi sono detta: tirati sulle maniche, comincia a sbobinare queste storie e raccontale, falle girare. E nella fattispecie la gran parte di queste storie erano storie di donne, perché non per scelta, ma perché per come stavano andando le cose, perché i mariti erano in carcere, erano stati uccisi, o i fratelli o i parenti, o avevano dovuto scappare dall'Irlanda del Nord, e ne è venuto fuori un libro femminile senza che io lo volessi da questo punto di vista. E questo libro è una sorta di aiuto reciproco che in qualche modo io e le donne di cui parlo nel libro ci siamo date, nel senso che io ho fatto loro da cassa di risonanza, ci ho dato quella voce che loro non avevano avuto fino a quel momento, un po' come il quadro L'urlo di Munch, questa bocca aperta che urla però l'urlo non si sente, e nello stesso tempo queste voci, questo libro per me è stato sicuramente un aiuto molto molto forte, perché ho potuto, attraverso le storie di queste donne, raccontare quella violenza, la repressione che avevo toccato con mano e che mi pesava fortissimamente sul cuore, che forse in prima persona non sarei mai riuscita a raccontare, anzi direi che neanche adesso, nonostante i 30 anni che sono passati dal mio primo viaggio, 29, non riesco a raccontare perché è troppo dolorosa. Senti Silvia, guardando il libro nella sua interezza, possiamo cercare di capire che cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa dalla prima storia all'ultima in ordine cronologico, visto che si parte sostanzialmente con la Domenica di Sangue di Derry e si arriva al 2001, peraltro parlando di temi che sono ancora oggi anche 2011, perché c'è una storia del 2011 che è appunto la storia della piccola scuola di Gaelico, esatto, nel quartiere di Minologe. Ecco, ti volevo chiedere, in questo lasso di tempo che è piuttosto largo, quali momenti di continuità possiamo trovare e quali momenti di discontinuità? Ecco, il libro è diviso per capitoli e non ha, diciamo, una struttura cronologica. C'è una prima storia, quella di Lily Fitzsimmons, che si chiama appunto Noi donne ci organizzammo, che racconta un po' la storia di questa donna che gioco forza, senza sceglierlo, si è trovata a vivere gli anni terribili che vanno dalla fine degli anni 60 fino agli scioperi della fame, attraverso il suo impegno di madre, di persona che assisteva le persone, i parenti che erano andate in carcere, poi che ha assistito, è diventata appunto protagonista di quei terribili anni, senza volerlo, diciamo, quella è la storia che fa un po' da cappello a tutto il libro. Ci sono poi altre storie che hanno una datazione cronologica successiva, che però vi ho inserito più che altro per completare, con la suddivisione dei capitoli, la casistica di violazione dei diritti umani che ci sono in Irlanda del Nord, per cui il libro ha una struttura che va vista per capitoli. Chiaramente alcuni, come dici tu, alcuni degli aspetti del conflitto che lo caratterizzavano 30 anni fa sono cambiati, altri sicuramente non sono più gli stessi, però direi che in linea di massima, visto che adesso si tratta di assenza di guerra, molte cose sono rimaste le stesse. Si tratta di una sorta di presente che continua a ripetersi. Chiaramente l'accordo di pace del Venerdì Santo ha portato al ritiro dei soldati dall'Irlanda del Nord, anche se alcuni sono ancora chiusi nelle caserme, per cui tutte le storie che si riferiscono appunto all'abuso dei soldati britannici per le strade dell'Irlanda del Nord adesso non c'è più. Però diciamo che la struttura che ha retto questo stato ingiusto e la struttura, la macchina di repressione e di oppressione, da un certo punto di vista è ancora in piedi. Con l'accordo di pace del Venerdì Santo sicuramente sono stati fatti dei passi avanti. Un passo è sicuramente il tentativo di riformare una polizia che era una longa manus di quello stato repressivo, oppressivo che era l'Irlanda del Nord, e un tentativo di riformare la polizia che ha bisogno di un lungo tempo per diventare una realtà, anche se gli sforzi sono molto forti. Però le storie che riguardano ad esempio la povertà, le storie che riguardano eventi fondamentali e grossi, violenti come il Bloody Sunday, sono ancora assolutamente attuali, anche perché le famiglie che hanno delle persone sono state uccise durante il Bloody Sunday stanno ancora attendendo giustizia. Quello che io ho voluto fare in questa nuova edizione è stato quello, come dicevi tu, di completare e di arricchire un quadro di violenza e repressione che era già ben strutturato, per non dare appunto l'impressione, e cercando di arrivare appunto al 2011, che la storia in Irlanda del Nord sia cambiata. Alcune cose sono cambiate, come dicevo prima, alcune rimangono sempre uguali, per cui al massacro del Bloody Sunday che tutti conoscono, ho aggiunto anche altri due massacri, la storia di due massacri. Il massacro di Ballymurphy, avvenuto prima del massacro del Bloody Sunday, 11 persone uccise tra 9 e l'11 agosto del 1971, e il massacro di Spring Hill con l'uccisione di 4 persone l'anno dopo. E la cosa che, diciamo, il filo che lega, diciamo, questi tre massacri è il fatto che le persone che sono state uccise erano persone assolutamente innocenti che stavano per strada e non stavano facendo niente di male. In particolare il massacro di Ballymurphy, di cui ricorre quest'anno il 40° anniversario e di cui si può trovare informazioni anche nel sito The Ballymurphy Massacre in internet, è un massacro che forse fosse stato prevenuto, forse avrebbe impedito il Bloody Sunday. La storia che dà voce a questo massacro è quella di Bridge Boyle, la cui madre era uscita per strada per soccorrere un paio di persone che erano rimaste ferita anche lei, era morta dissanguata per mancanza di assistenza. La storia si chiama La lasciarono lì nel prato. E Bridge Boyle appunto racconta di questa madre di cui non ricorda assolutamente niente, perché lei aveva solo un anno, mm-hmm. e che è morta nel tentativo di assistere le persone ferite. La storia invece del massacro di Springhill è quella di una ragazzina di 13 anni. Sono storie molto, molto emblematiche, storie anche comuni. Situazioni di guerra ce ne sono mille, però io le ho voluto raccontare perché diventano emblematiche. Questa è una ragazzina che amava i pantaloni, amava i jeans. A scuola, sapete, nel sistema scolastico britannico, le bambine e i ragazzini devono andare a scuola con la gonna, lei invece finita la scuola andava nel bagno nella scuola, si toglieva la gonna e si metteva i jeans. E questa sua predilezione per i pantaloni, 13 anni aveva, Margaret Gargan, le è stata fatale, perché quando i soldati postati su un edificio aprirono improvvisamente l'edificio a Spring Hill, che è un quartiere vicino a Ballymurphy, a West Belfast, aprirono un fuoco contro le persone, scelsero lei, che stava parlando con una sua compagna, scambiandola per un ragazzo, perché lei aveva i capelli corti, e questa sua compagna la vide cadere al suolo e non ci fu niente da fare. Okay. Sono appunto storie rimaste sconosciute per moltissimo tempo, e se del massacro di Ballymurphy si è parlato pochissimo, del massacro di Spring Hill bisogna ancora cominciare a parlare, ed è per questo che l'ho inserita nel libro, perché spero che, come i parenti delle famiglie, delle persone uccise nel massacro di Ballymurphy stanno cominciando a organizzarsi e a chiedere appunto giustizia, lo possano fare anche i parenti delle persone uccise in quella tragica sera d'estate del 72. Sì. E un'altra voce che ho inserito nel nuovo libro, in proprio il 30° anniversario della morte di Bobby Sands, volutamente, è stata la voce di Mary Doyle, che è una delle tre donne che nell'ottobre del 1980 nel dicembre del 1980, durante il primo sciopero della fame che fu condotto a Long Cache, il secondo fu quello in cui morirono Bobby Sands e i suoi compagni tra il maggio e l'agosto del 1981, durante il primo sciopero della fame, quello invece del dicembre 1980, pochi sanno appunto che ci furono anche tre donne che iniziarono un sciopero nel carcere di Armagh, unendosi ai detenuti che lo avevano già cominciato a Long Cache. E Mary Doyle è una delle tre. Un'altra fu Maria Farrell, che fu la donna che poi fu uccisa a Gibilterra in un attacco organizzato dalle teste di cuoio britanniche con l'assistenza del governo spagnolo, ucciso a Gibilterra a un distributore di polizia a freddo, con la scusa appunto che i tre sarebbero stati a Gibilterra per progettare un attentato, e con la scusa che la macchina presentava appunto delle armi da fuoco, cosa che invece non è vera. E dalla storia di Mary Doyle, questa donna che iniziò appunto lo sciopero della fame, si capisce come comunque le donne nel conflitto nordirlandese, ma non solo, in questo come in tutti gli altri conflitti, abbiano giocato un ruolo fortissimo, fondamentale, nella lotta per la liberazione, per la dignità e per l'indipendenza del proprio paese. In tutta la storia irlandese altre donne come Mary Doyle e le sue compagne non si fecero problemi a condividere le sofferenze, il carcere e anche la morte a sostegno dell'indipendenza del proprio paese. Dato questo, che di solito è abbastanza misconosciuto, è misconosciuto in generale e in particolare... Si parla dei prigionieri, ma non si parla delle detenute del carcere di Long Cache, insomma. Senti Silvia, un'ultima cosa ti volevo chiedere, ovviamente non abbiamo il tempo per raccontare tutte le storie del libro, mi ha molto incuriosito però il fatto che fra le varie protagoniste ci fosse anche una donna italiana che veniva dalla sciosceria. Sì, l'ho messa apposta, anzi ti ringrazio di questa domanda, perché questa è una storia che mi sta moltissimo a cuore. Quando si pensa al conflitto nordirlandese si pensa sempre che le vittime siano legate in qualche modo, circoscritte alla realtà dove questo conflitto si combatte. Invece purtroppo nel conflitto nordirlandese non è così. Tra queste vittime ci fu anche un italiano, Antonio Magliocco, era di Casalattico, in provincia di Frosinone, era emigrato insieme al fratello. A Dublino avevano due piccoli locali, un locale di fish and chips, e dopo un po' si era sposato e aveva portato in Irlanda anche appunto la moglie Anna, ed erano nati tre bambini. Il 17 maggio del 1974 avviene nel sud dell'Irlanda, perché la storia emblematica, e non solo appunto che si tratta di una persona che non sia dell'Irlanda del Nord irlandese, ma anche dove scoppiarono le bombe, ci fu un terribile massacro. Tre bombe scoppiarono a Dublino, per cui nell'Eire, non in Irlanda del Nord, e una quarta bomba scoppiò nella cittadina di Monaghan sul confine. E Antonio Magliocco si trovava in Talbot Street, luogo dove fu piazzata una delle tre bombe a Dublino, stava andando a trovare il fratello per chiedergli cosa voleva che lui comprasse, perché stava andando al supermercato. E questa visita gli fu fatale e fu una delle 29 vittime del massacro appunto delle bombe di Dublino e Monaghan. Tra l'altro morì anche una cittadina francese. A tutti coloro che hanno occasione di andare a Dublino, che arrivano a Dublino via treno, fuori dalla stazione di O'Connor Station a Dublino, proprio fuori, attraversato la strada, c'è un monumento e una grossa lapide con i nomi appunto delle vittime della strage, e tra queste vittime c'è anche Antonio Magliocco. E la caratteristica, la ferocia appunto di queste tre bombe fu aggravata anche dal fatto che le bombe, sembra, anche se i familiari non hanno ancora avuto giustizia, siano state piazzate dalle liste dell'Irlanda del Nord per portare e destabilizzare anche le situazioni al di là del confine, aiutati e armati da elementi dell'esercito britannico. I familiari, che sono riuniti in un'associazione chiamata Justice for the Forgotten, stanno chiedendo giustizia, ma non sono per il momento ancora riusciti ad averlo, perché il governo britannico si rifiuta di passare i file che ha sul massacro, ritenendo che essendo avvenuto al di là del confine non lo riguarda. Per cui grosse responsabilità da parte del governo britannico anche nell'occultamento della verità di questi massacri. Anna Magliocco fu costretta poi a lasciare l'Irlanda, non riuscì più a portare avanti l'attività, tornò in Italia e ha sempre combattuto per sapere la verità, e non ha avuto, proprio perché appunto essendo il marito italiano che lavorava in Irlanda, non ha potuto avere neppure quel risarcimento economico che in teoria gli spettava, perché in Irlanda il governo irlandese appunto diede un'assistenza minima per pochissimo tempo, ma poiché il marito era italiano non poteva fare di più. Arrivata in Italia si sentì dire che appunto il marito lavorava in Irlanda, per cui la cosa ricadeva sotto la giurisdizione irlandese. Ha lottato tutta la vita da sola e la considero sicuramente una delle vittime del conflitto nordirlandese. Ho capito. Silvia, io ti ringrazio moltissimo. Prima di chiudere... Potrei fare giusto per ritornare appunto, proprio perché il passato è sempre presente, un appello agli ascoltatori. Assolutamente. Riguardo una persona che si chiama Brendan Lillis, che in questo momento sta praticamente morendo in condizioni gravissime in un carcere dell'Irlanda del Nord a 30 anni dalla morte di Bobby Sands. Lui si chiama Brendan Lillis. Se gli ascoltatori entrano in qualsiasi sito mettendo questo nome, Brendan Lillis con due L, questo è un ex prigioniero. Ha una vicenda assolutamente assurda. Nella metà degli anni 70 fu incarcerato per un reato che gli era stato appunto contestato, e dopo era stato rilasciato, è stato rincarcerato, e praticamente si trova, per un'assurdità proprio dal punto di vista legale, dei cavilli e una situazione legale molto complicata, si trova in carcere senza nessuna accusa. È malato di una malattia progressiva che praticamente lo fa rimanere a letto, ha bisogno di assistenza medica adeguata. La sua compagna Rushin ha chiesto che venga rilasciato per motivi umanitari. Il segretario di Stato per l'Irlanda del Nord ritiene che non ci siano le condizioni per rilasciarlo, per cui una persona in carcere in Irlanda del Nord oggi continua, sta in condizioni gravissime, rimane in carcere, e Rushin ha iniziato proprio ieri uno sciopero della fame per strada a Belfast, a Dunmersustown, di 3 giorni, per per far pressione sul governo britannico affinché quest'uomo possa essere curato a casa. Se appunto gli ascoltatori entrano appunto in un sito, digitano Brenda Lee, si vedrà anche proprio la foto di Brenda Lee si verso sul letto e si può vedere chiaramente le precarissime condizioni di salute in cui si trova, per cui ringrazio anche Radio Ronda Rossa della possibilità di fare riferimento a una persona che 30 anni dopo sta soffrendo in un carcere in Irlanda del Nord. Assolutamente, noi facciamo nostro il tuo appello e ti volevo chiedere però prima di lasciarci qualche parola sulla prefatrice del tuo libro, Clara Relli, che è insomma un personaggio di un certo spessore, portavoce di associazioni molto importanti, ecco, ci andava di spiegare anche chi, certo, chi fosse. Io vorrei parlare di Clara Relli un secondo e anche però del libro, della persona a cui è dedicato il libro. Certo. Il libro è dedicato a Kathleen O'Hagan, aveva 38 anni, 5 figli a 7° mese di gravidanza ed è stata uccisa nel sonno da un gruppo paramilitare lealista dell'Irlanda del Nord il 7 agosto 1994. Io mi ricordo, avevo sentito la notizia, io sono arrivata in Irlanda del Nord pochi giorni dopo e sono andata a ho avuto l'occasione insomma di incontrare il marito e Kathleen O'Hagan mi sembra proprio il simbolo un po' di quello che è stata l'assurdità di questo conflitto, la violenza, la oppressione, una donna incinta con 5 figli che viene uccisa nel sonno. E questa era appunto Kathleen O'Hagan. Clara Relli è un po', come che possiamo dire, una portavoce, così come era Emma Groves, una donna accecata da un proiettile di gomma nel 1974, morta 3 anni fa, che ha girato per il mondo, sebbene cieca, a denunciare la pericolosità di questi proiettili plastici che continuano peraltro a essere sparati dalla polizia dell'Irlanda del Nord, come è avvenuto pochi giorni fa a Dardoyne. Clara Relli è la rappresentante del comitato contro proiettili plastica, soprattutto in questa associazione che si chiama importantissima Realties for Justice, che da anni ha messo insieme i familiari delle persone che sono state uccise a causa delle collusioni tra soldati, polizia, servizi segreti e forze di sicurezza e lealisti dell'Irlanda del Nord, e con una voce, anche lei una voce, una donna instancabile, una donna coraggiosa che ha sempre denunciato le violazioni dei diritti umani e che ho avuto l'onore di avere nell'introduzione del mio libro. Va bene, Silvia, noi intanto ci siamo scordati di farti i complimenti per i premi che hai vinto ultimamente, dovevo farlo all'inizio, lo facciamo alla fine della nostra... Del premio di Alessandro Tassoni. Esatto, sì, sì. Ti ringrazio. Da parte mia, della redazione e di quelli che hanno organizzato con te la chiacchierata con Sean qualche tempo fa. E il libro, lo ricordiamo ancora una volta, si chiama Le compagne di Bobby Sands, le donne e la guerra in Irlanda del Nord, l'editore Castelvecchi. E ultimissima cosa prima di lasciarci, fra 10 anni ci sarà una nuova edizione di questo libro con altre storie secondo te, oppure potremmo guardare ai fatti che hai raccontato con l'occhio dello storico che guarda indietro e vede fatti accaduti ma che non si ripeteranno? Ma è difficile da dire, la storia ha girato molto velocemente questi anni in Irlanda del Nord, però le cause del conflitto sono ancora là. Non credo che 3.700 morti e una situazione di oppressione e repressione possano essere dimenticati in 10 anni. Credo ci saranno altre storie da raccontare e le sto monitorando, sto cercando di vedere quali storie non ho ancora raccontato, però credo che in Irlanda no, il processo sia molto lungo e difficile, sarà tanto più lungo e difficile quanto più l'attenzione dei media internazionali si spegne su questo conflitto. Purtroppo in giro per il mondo ce ne sono tantissimi, però questo è nel cuore dell'Europa e credo che il popolo irlandese abbia bisogno del sostegno e dell'appoggio del resto dei paesi europei, perché la strada verso la pace, la costruzione di un paese diverso è molto lunga. Non basta la firma su un accordo di pace, bisogna creare una società nuova, strutture nuove, una nuova coscienza e anche partecipazione in uno Stato che non deve essere uno Stato di apartheid, come lo è stato per tanti anni. Per cui credo sì, ci saranno storie nuove, però anche storie purtroppo vecchie da raccontare ancora. Va benissimo, noi speriamo che magari le storie vecchie siano un po' meno di quelle a cui dobbiamo avuto assistere finora. Spero davvero. Ti ringraziamo moltissimo, Silvia, e insomma risentirci prossimamente, sia per quanto riguarda la cronaca dall'Irlanda, sia per quanto riguarda le tue prossime fatiche da scrittrice e da giornalista. Grazie a tutti. Un abbraccio e a prestissimo. Ciao. No, I don't think you'll be able to sing along with us. The Bald of Joy.